Io volevo dire solo una cosa, ricordare perché siamo ferme su questo ponte. Siamo ferme su questo ponte perché vogliamo anche ricordare la nostra storia e la nostra memoria. Ricordare perché siamo contro il patriarcato, contro l'antisemitismo, siamo antifasciste e quindi questo è un pezzo di storia molto importante. Delle donne si sono opposte al nazifascismo e sono state fucilate perché si sono opposte col loro corpo e con la loro vita per difendere e portare comunque la libertà e l'antifascismo in questa città. Quindi questa era una tappa molto importante per noi da ricordare tra tutte. E comunque per concludere, noi abbiamo scelto l'antiimperialismo come momento fondante dell'8 marzo di quest'anno per due motivi, perché noi siamo come donne siamo sotto attacco su due fronti, sul fronte esterno e sul fronte interno. Sul fronte esterno ci usano la nostra oppressione, i diritti umani, il pink washing per portare le guerre neocoloniali, e in questo portare le guerre di aggressione ai paesi del terzo mondo gli USA sono lo stato del capitale e sono in prima fila nel portare le guerre coloniali ed esportarle altrove. E siamo sotto attacco sul fronte interno, perché lo stesso meccanismo di guerra che è stato portato e che viene portato continuamente nei paesi del terzo mondo e nei paesi altri viene portato nei nostri luoghi con la colonizzazione e la militarizzazione dei territori. Basta vedere quello che sta succedendo in Val di Susa con una normativa con una legislazione penale serratissima, tant'è vero che adesso hanno fatto delle leggi per la galera con chi andrà a combattere all'estero, con la scusa come sempre pelosa e strumentale di combattere l'integralismo musulmano. L'integralismo musulmano non è qualcosa che è nato oggi, non è qualcosa che è dovuto al fato, non è qualcosa che è dovuto a persone particolarmente malvagie, ma è dovuto al fatto che l'integralismo è stato sdoganato dal colonialismo occidentale, in prima fila dagli Stati Uniti, è cominciato con l'Afghanistan, con l'Iraq, con la Libia, adesso con la Siria, e il prossimo chissà, forse sarà l'Iran. Sono stati destabilizzati tutti i paesi che avevano una tendenza laica del Medio Oriente, e adesso l'ISIS è diventato il mostro del da combattere. Perché? Perché fomentato, evocato un mostro, adesso lo usano anche con la doppia veste per scatenare le guerre sempre in quei luoghi con la scusa dell'antiterrorismo. Noi siamo continuamente strumentalizzate, è strumentalizzata la nostra oppressione, siamo strumentalizzate qui nei nostri luoghi perché per esempio l'emancipazionismo, i diritti della diversità sono strumentali per evocare leggi securitarie. Noi stesse col decreto antifemminicidio siamo state usate per le norme contro il TAV, contro le lotte no TAV. E noi stesse continuamente veniamo usate per portare avanti inasprimenti della militarizzazione, le telecamere, le intercettazioni, le leggi securitarie. Noi dobbiamo assolutamente rifiutare tutta questa impostazione, e rifiutare questo significa rifiutare la logica imperialista sul fronte esterno e significa rifiutare le logiche che vengono portate avanti sul fronte interno, in primis da partiti come il Partito Democratico. Quindi noi assolutamente come donne veniamo chiamate in causa e non possiamo più assumere posizioni neutre. Le posizioni neutre non esistono, è necessario che ci schieriamo in prima persona. Laura è viva e lotta insieme.